La web radio che stai ascoltando appartiene a Circuito Radio NetWeb, il primo network di musica copyleft. Signore e signori, benvenuti al Mangia Show. Presenta il Mangia. Buon divertimento. Ladies and gentlemen, welcome to the Mangia Show. Presents the Mangia. Enjoy. Benvenuti a tutti all'interno del Mangia Show. Un saluto che vi giunge da parte di Andrea, oppure se preferite da parte del Mangia. Rimarremo insieme circa 60 minuti in questo contenitore pomeridiano, notturno, serale, perché spesso viene replicato. Dicevo, rimarremo insieme in questo contenitore giornaliero circa 60 minuti. Il nome del programma è Mangia Show, il conduttore, come ricordato poc'anzi, si chiama Mangia. In apertura vi ricordo che in questa trasmissione ascolterete solo ed esclusivamente opere musicali protette dai diritti della licenza Creative Commons, quindi non ascolterete assolutamente le canzoni protette dai diritti d'autore. Quindi mi sembra giusto ricordarlo in apertura per non commettere errori magari in seguito. La trasmissione ha anche dei contatti: se volete prendere parte direttamente allo show, andate su www.andreamangiarotti.com, lì trovate la mia mail per interagire con il sottoscritto, oppure semplicemente potete dare un occhio all'interno del mio blog, in questo istante in fase di restyling, insomma stiamo un pochino sistemando tutti i post del blog. Comunque www.andreamangiarotti.com per maggiori informazioni su di me e sulla trasmissione. Un'altra bella giornata che ci vede insieme, ci vedrà insieme anche nelle prossime settimane, però ora direi di partire immediatamente con la prima canzone che apre ufficialmente il Mangia Show. Ospitiamo sempre l'amico Dark Light, Graziano Manca, H Dark Light, con una sua canzone. Nel darvi il benvenuto vi regalo questa traccia molto molto bella. A cantare Dark Light. Questo è il sound del Mangia Show. Thank you. corsi, eventi, manifestazioni, convegni. Nello spazio news, eventi, convegni e manifestazioni, quest'oggi ospitiamo ancora una volta il planetario K del Monte Cecema in provincia di Pavia, che vi offre le seguenti giornate a tema da loro, quindi a Cecema in provincia di Pavia. Vediamo un pochino che cosa accade. Arriva la bella stagione, il planetario osservatorio astronomico K del Monte nel mese di aprile vi aspettano osservazioni del sole con spettacolari protuberanze e macchie solari e dalla volta celeste notturna, galassie, nebulose, ammassi stellari, un walking shop con escursione notturna dedicato alla conoscenza dei rapaci della Luna, una serata dedicata alle ultime novità della cosmologia per cercare di rispondere alle domande come si è formato e come è fatto il nostro universo. Vediamo le date. Sabato 23 aprile alle ore 21, la Pasqua e l'astronomia, conferenza e simulazione al planetario per conoscere l'origine storica e astronomica della festa pasquale e osservazioni notturne guidate dal cielo stellato, pensate un po', ad occhio nudo con puntatori laser con i binocoli giganteschi e telescopi. Domenica 24 aprile alle ore 16, Pasqua e astronomia, lo spettacolo del cielo primaverile al planetario, introduzione al fenomeno astronomico della Pasqua e la simulazione della volta celeste nel periodo primaverile, le costellazioni, la mitologia, gli oggetti del profondo cielo e osservazioni del sole a telescopi, che si sta avviando al massimo trasporto di energia con fenomeni eclatanti quali protuberanze, brillamenti e macchie solari. Vi ricordo che per info e tesseramenti potete scrivere una mail a osservatorio@osservatoriocadelmonte.it, oppure c'è anche un numero di telefono 327 76 72 984. I costi sono 7 euro, ridotto 5 euro per ragazze di sotto i 10 anni, l'ingresso gratuito per i possessori di Cosmotessera e Astrotessera. Questo è quanto per quanto concerne il planetario, l'osservatorio astronomico K del Monte Cecema in provincia di Pavia. Settimana prossima leggeremo ancora qualche altra manifestazione, sempre organizzata in modo egregio dal planetario. Siete sempre in ascolto di Radio Oltre Po, in vostra compagnia Andrea, oppure il Mangia, fate voi, alla scoperta della nostra musica e alla scoperta soprattutto delle nostre news che leggiamo solitamente. Vi ricordo il nostro indirizzo, il mio blog per raggiungerci, www.andreamangiarotti.com, qui potete insomma visionare quello che scrivo o semplicemente scrivere una mail al sottoscritto e scrivere una mail al programma, sempre ovviamente se vi va. un'altra gran bella canzone che porta la firma di Sean Wright. Il titolo era The Farm, l'abbiamo ascoltata all'interno del Mangia Show, e in questi giorni continuano le varie diatribe politiche tra Berlusconi, magistrati, PM, sinistra, Futura Libertà, chi più ne ha più ne metta, eccetera eccetera. A proposito sulla giustizia, fini patto scellerato, Berlusconi non conosce vergogna. Questa è una news reperita dalla ADN Kronos e riguarda per appunto il presidente della Camera Gianfranco Fini. Escalation di quotidiane menzogne di Berlusconi non è più tollerabile, così afferma Fini. Anche oggi per l'ennesima volta il presidente del Consiglio ha detto di avere le prove di un patto scellerato che avrei sottoscritto con la magistratura per impedire le riforme della giustizia. Lo sfido a dimostrare quello che dice e il nome del magistrato che gli avrebbe detto tutto. Fornisca le prove, sostengo che le sue parole come sempre andranno finire nel nulla. È quanto dichiara il presidente della Camera Gianfranco Fini, replicando le affermazioni del premier Silvio Berlusconi su un patto scellerato tra terza carica dello Stato e magistratura. Va bene, questo è il parere di Gianfranco Fini, che spesso è preso di mira dal premier. Una news che ci giungeva dalla politica interna, che più che politica sembra veramente una, non potrei dirlo, però vabbè, sembra, diciamo così, un po' un calderone particolare dove ci sono attacchi su attacchi. Andiamo avanti con una bella canzone, City Flight, questi sono i Zero Page. Francia sospende tutti i treni, Maroni, siamo in regola con le norme europee. È un articolo reperito sempre dalla ADN Cronos. Le autorità francesi hanno sospeso tutti i treni che dalla stazione di Ventimiglia sono diretti in Francia. A quanto si apprende dalla Polfera, infatti, i convogli non possono varcare la frontiera di Ventimiglia. Manifestazione davanti alla stazione di Ventimiglia per chiedere la libertà di circolazione degli immigrati provenienti dal Nord Africa in Europa. Ai numerosi immigrati sono aggiunti anche alcuni giovani dei centri sociali. L'Europa della solidarietà, quello che ha sollecitato ancora non c'è, ha detto Roberto Maroni in un'intervista a Sky TG24. Di fronte a una gravissima crisi umanitaria abbiamo chiesto solidarietà e aiuto. Le condivisioni dei nostri sforzi ci hanno detto che il problema dell'Italia, ha spiegato il ministro dell'Interno parlando dell'emergenza immigrazione, che il problema è quello dell'Italia. Mi ero un attimo confuso. Maroni non entra nel merito della questione dei migranti che ieri hanno passato il confine con la Francia. Non mi metto nelle vicende francesi, ha detto il ministro. Noi siamo in regola con le norme europee per la circolazione secondo Schengen, ha sottolineato. Abbiamo dato i documenti, quello che serve, quello che è stato riconosciuto dalla Commissione europea per quelli che hanno il permesso temporaneo e che vogliono andare in Francia. Il titolare del Viminale spiega anche che la fase acuta degli sbarchi, quella delle tendopoli che stiamo svuotando, la stiamo superando. Ma l'emergenza non è finita, fino a che in Libia ci sarà la guerra, fino a quando la Tunisia non ci sarà un governo più efficiente e non sarà finita. Queste sono le parole di Maroni, che quest'oggi per l'appunto ha rilasciato questa dichiarazione ripresa dalla ADN Cronos. I know you're not an emotionless person. On Retuming con Paris Energy of Life, bella questa canzone che abbiamo ascoltato all'interno del Mangia Show. Io sono il Mangia, vi ricordo ancora una volta tutti i nostri contatti per interagire con il sottoscritto: www.andreamangiarotti.com è il mio sito personale, dove anche potete interagire con la trasmissione oppure semplicemente leggere i miei post. In fase di restyling il blog, comunque andatelo a visitare, www.andreamangiarotti.com, per stare insieme all'interno del Mangia Show. Tra poco parleremo del nuovo film di Nanni Moretti, Abemus Papa, spero che la pronuncia sia corretta. C'è una critica da parte di Avvenire che sconsiglia la visione della pellicola di Nanni Moretti, che tra le altre cose sembra riscuotere un discreto successo nelle sale cinematografiche. Poi parleremo anche dei film in programmazione nelle sale, eccetera eccetera. Ora andiamo avanti invece con una bella canzone, mettiamo su qualcosa di dance, sembrano quelle canzoni molto carine di musica house che uscivano all'incirca verso la metà degli anni 90. Fox Pet con Feel the Groove, questo è il Mangia Show. Senti qua che atmosfera, è veramente, sembra quasi Luca Dondoni di Radio 101, a parte gli scherzi. Ascoltatevi questa, Feel the Groove, Fox Pet. Passé, c'est de bercer ma vie. Aujourd'hui, si je la remercie, c'est pour lui donner un peu plus d'ampleur. La vie est ride, elle commence par les battements de ton cœur. Son énergie est en toi, dans chaque mouvement de tes pas, dans chaque claquement de tes doigts. Elle traverse le temps, elle se promène dans l'air. La musique fait bouger les gens, et c'est son unique prière. Music is shining in my eyes. Make a rhythm in your life. We're gonna listen to the beat, yeah, and play that funky. La musique, c'est là pour là. À toi d'en créer ta propre vision, car la mienne ne t'apportera pas de solution. Juste une sensation pour laisser parler tes émotions. Traduis-la en image, en mouvement. Fiche pour toujours cet instant. Mais le rythme lui tourne, tourne. Ta tête à aucun moment il ne s'arrête. Music is shining in my eyes. Make good rhythm in your. funky music, bello questo groove, era Feel the Groove che avete ascoltato all'interno del Mangia Show. Vi avevo detto in precedenza della nuova pellicola di Nanni Moretti, Lettera sull'avvenire contro Moretti, non andate a vedere Habemus Papam. Roma, sempre un articolo tratto dalla ADN Kronos, un invito a boicottare il botteghino di Habemus Papam, il nome del motto gioca coi fanti e lascia stare i santi. All'indomani del successo ottenuto nel giorno del debutto del nuovo film di Nanni Moretti, il quotidiano dei Vescovi Avvenire pubblica una lettera appello del giornalista vaticanista Salvatore Izzo, in cui si invitano i cattolici a non andare a vedere il film perché offende la nostra religione. Bocciato Habemus Papam al botteghino, saremo noi a decidere il successo di questo triste film, se si lasceremo convincere ad andarlo a vedere perché il pubblico laico si annoierebbe a morte e infatti diserta le sale. Questo giornalista quindi afferma che il successo potrebbe venire dai cattolici. E su di noi che si fa conto per recuperare l'investimento cospicuo che è stato fatto per ricostruire la Sistina in uno studio, scrive Izzo. Alla disavventura con la quale i media trattano i temi religiosi ormai ci siamo abituati, rileva. Il fatto nuovo di questi giorni è invece come alcuni opinionisti cattolici trattano il film di Moretti. Così ospitalità che chiedo è per lanciare un appello, non fidiamoci dei critici cattolici, anche se preti, che lo assolvono con una ben curiosa giustificazione. Moretti poteva essere molto più cattivo, dice. Se vogliamo respirare l'atmosfera del conclave, sollecita Izzo, andiamo direttamente alla Sistina. Per il giorno della beatificazione i musei vaticani hanno prolungato l'orario di apertura e dimezzato il costo dei biglietti, perché dobbiamo finanziare chi offende la nostra religione. Scusate, ma sto leggendo dal telefonino, scritto molto in piccolo. Non mi sembra, osserva, che regga il solito argomento che dobbiamo conoscere per giudicare. Non è che debbo saltare giù del sesto piano per capire che potrei farmi male. Di motivi per non vedere i film di Moretti ce n'è almeno uno fortissimo, quello che ci ha insegnato la nostra mamma: gioca coi fanti e lascia stare i santi. Non è un bello spettacolo vedere scimmiottare la figura del capo della Chiesa Cattolica con la farsa, per quanto garbata essa sia, delle elezioni impossibili di un candidato fragile e bisognoso di aiuto. Il Papa, dice Izzo, non si tocca, è il vicario della Cristo, la roccia su cui Gesù ha fondato la sua Chiesa. Insomma, Habemus Papam, conclude, non abbiamo bisogno. Noi il Papa ce l'abbiamo per davvero. Questo è quello che scrive Avvenire sull'ultima produzione cinematografica di Nanni Moretti. Vabbè, d'altra parte, però, se non hai ancora visto, non so come fai a fare un commento. Vabbè, direi provare per credere, come diceva un tempo Guido Angeli, provare per credere. Andate al cinema, che è meglio, va. State ascoltando il Mangia Show. Per interagire col programma www.andreamangiarotti.com. Dis maman, pourquoi les enfants sont-ils si méchants? Mon chéri, tu sais, les grandes personnes le sont aussi. Ah bon, décidément, ça n'est vraiment pas marrant. Non, mon petit, tu verras, la vie est truffée d'ennui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont pas de Père Noël? Pourquoi Mourad il a pas le droit de manger du jambon? Est-ce que moi aussi je suis un homosexuel? Pourquoi le monsieur tout sale il dort dans des cartons? Je sais que je comprendrai quand je serai grand. C'est ce que m'ont répondu mes parents. Et je répéterai à mes 12 enfants: vous comprendrez quand vous serez grand. Dis papa, pourquoi le facteur dort avec maman? Dis maman, pourquoi papa picole un peu souvent? Dis mamie, pourquoi mon pépé est mort en prison? Dis Jésus, pourquoi tu fais jamais ce que j'attends? Qu'est-ce que j'aurai comme cadeau pour mon anniversaire? Pourquoi j'ai pas le droit de parler à des inconnus? Qu'est-ce que ça veut dire la position du missionnaire? Pourquoi Caroline se fait toujours pipi dessus? Je sais que je comprendrai quand je serai grand. C'est ce que m'ont répondu mes parents. Et je répéterai à mes 12 enfants: vous comprendrez quand vous serez grand. Est-ce que les enfants d'Afrique ont la télévision? Pourquoi Marie Virginie a perdu ses cheveux? Est-ce que les œufs poussent un petit peu comme les champignons? Pourquoi c'est interdit de dire aux vieux qu'ils sont vieux? Est-ce que Gargamel arriverait à rentrer chez nous? Pourquoi la maîtresse a dit que Le Pen est gentil? Est-ce que les Juifs et les Arabes sont vraiment comme nous? Alors pourquoi mon copain Kader il est puni? Je sais que je comprendrai quand je serai grand. C'est ce que m'ont répondu mes parents. Et je répéterai à mes 12 enfants: vous comprendrez quand vous serez grand. Precedenza Sonic Radiation con Infinity, ora siamo tornati in onda con questa canzone alquanto bizzarra di David Quand Je Serai Grand, quando sarai grande, molto molto particolare, fa ridere, così no? Direi sul filone della musica degli Elio e le Storie Tese. Va bene, trovate l'intero album su yamendo.com, magari nelle prossime volte ascolteremo qualche altra traccia di questo cantante molto molto bizzarro transalpino. E ora, come promesso in precedenza, vediamo un pochino le pellicole in programmazione nelle principali sale italiane per questa settimana. Allora abbiamo Winnie the Pooh 9:21 nel bosco, poi Habemus Papam, precedentemente citato, abbiamo Rio in 3D, se sei così ti dico sì, scusate, Scream 4, C'è chi dice no, Drive Angry in 3D vietato minore di 14, The Next 3 Days, Hope, Mia moglie per finta, vediamo se trovo qualche altra pellicola, Il discorso del re. Queste sono le principali pellicole in programmazione per quanto concerne questa settimana. Vi ricordo che magari nei cinema cittadini, quelli del centro storico, trovate altri film magari un po' più ricercati, ma non per questo degni di nota, insomma, così degni di nota anche loro come questi. Andiamo avanti ancora con la musica. Thank you. inauguriamo lo spazio cinema. Quest'oggi la pellicola che vi presento e vi consiglio per i vostri acquisti in DVD oppure per i vostri video noleggi, ma presumo questo film non sia presente nei principali negozi di video noleggio. Lo potete acquistare magari in edicola e anche negli ipermercati. Sto parlando del film Luna di miele in tre. Sempre andiamo avanti con la filmografia di Renato Pozzetto. Vediamo la regia. La regia è di Carlo Vanzina. Musiche di Armando Trovaglioli, però un grande maestro veramente specializzato in colonne sonore da film. E vediamo un pochino gli attori principali. C'è Renato Pozzetto, Stefania Cassini, Vincent Gardena. Queste sono le due attrici che ruotano attorno al ruolo di Renato Pozzetto. Da segnalare anche Harry Rames, che negli anni 70, se non erro, girava anche qualche filmettino particolare, chiamavano così, qualche filmettino a luce rossa, come veniva detto negli anni 70. Era il periodo di lui e di John Holmes, Harry Reeves, quindi insomma lo conoscerete magari in molti. C'è anche la presenza di Massimo Boldi, Cocchi Bonzoni. Vediamo la trama. Un cameriere lombardo vince una vacanza premio esotica con una bella bionda, però attenzione, nel frattempo però si è sposato, allora cerca di combinare il viaggio di nozze con la scappatella. Un film ad equivoci molto divertente, con Renato Pozzetto, un Renato Pozzetto direi in grande forma. Qua siamo nel periodo che va dai fine anni 70 ai primi anni 80, quando Renato Pozzetto era molto molto apprezzato per i suoi film che ci facevano tanto ridere, ma anche un pochino, diciamo così, commuovere. Anche quest'oggi abbiamo dedicato uno spazio a Renatone. Vi ricordo Luna di miele in tre, la trovate nei principali negozi, centri commerciali, ma anche in edicola. Per le vostre serate, un DVD allegro che vi farà, diciamo così, sorridere, passare magari delle ore spensierate in compagnia del grande Renatone. Ora andiamo avanti con la musica. Ho trovato un ennesimo grande disco, grande successo dell'artista svedese Kammerer. È anche l'ultima canzone che conclude il Mangia Show, poi a Dio piacendo ci ritroveremo ancora settimana prossima. Il titolo del brano è Fly Like a Fly, Kammerer all'interno del Mangia Show. sempre un successo via l'altro, e l'artista svedese Camere con questa canzone dal titolo Fly Like a Fly. Avete ascoltato il Mangia Show. Informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Cari amiche e cari amici, eccoci giunti al termine del Mangia Show. Siamo arrivati in fondo. Mangia zio, scusate, mi è scappato un po' l'accento bolognese, cosa vuoi farci? Dicevo, siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io vi ringrazio per essere rimasto in mia compagnia. Vi ricordo ancora il mio blog www.andreamangiarotti.com. Lì trovate la mia mail per scrivere alla trasmissione, oppure semplicemente potete farci una visita e leggere i miei post dal più vecchio al più recente. Grazie ancora per l'attenzione, abbiamo ascoltato un sacco di canzoni interessanti oggi, come sempre musica Creative Commons che nulla ha a che spartire con la musica protetta dai diritti d'autore. Ci sarà un sacco di fermento sul web, tanti cantanti emergenti molto bravi che hanno deciso di farsi tutelare dalla Creative Commons, e grazie a questo noi possiamo diffonderla tramite onde radio senza dover pagare tasse, mica tasse, che poi alla fine della fiera servono solo a far ingrassare la SIAE, ma le radioline locali, insomma, non, secondo me non ha senso mettere dei paletti. Piuttosto i network, magari alzategli un pochino, diciamo così, le varie tasse ai network, ma le radio locali, grazie a Dio, grazie al web, grazie anche alla Creative Commons, rimangono ancora libere come un tempo. Ultima citazione del sottoscritto, vi abbraccio tanto, vi ringrazio per l'attenzione, noi ci ritroviamo, Dio piacendo, settimana prossima. Bye bye. Ciao, grazie. Ciao ciao.